24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti in questo istante, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, che il momento economico sia di quelli non dei più facili ormai in tutte le salse lo abbiamo capito, e quindi è il momento anche di guardare ad iniziative interessanti, no? Esplorando nuovi orizzonti che magari vengono riscoperti. Esattamente, come quelli che per esempio sono attivi presso le parrocchie, che sono, come dire, anche i punti di assistenza molto spesso molto più vicini a noi di quanto non pensiamo, e soprattutto molto spesso così le consideriamo come quei punti di assistenza, conforto e sostegno solo per le famiglie che hanno delle situazioni di disagio sociale ed economico molto forti. In realtà questa crisi finanziaria sta facendo riscoprire la difficoltà economica anche a quelle famiglie che magari in passato non lo avrebbero mai immaginato. Tra l'altro ci ricollegheremo anche alla controcopertina di GR24 che abbiamo sentito poco fa, quella che ci ha raccontato della visita che è in corso in Italia in questi giorni del fondatore del microcredito Muhammad Yunus. Ne parleremo tra qualche istante, perché sentiremo anche direttamente dalle sue parole di che tipo di progetti ha in mente per il nostro paese. Allora, dicevamo, la crisi finanziaria sta avendo un forte riflesso diretto sulla vita delle persone. Il 2009 si è aperto all'insegna della crisi dell'economia reale, e ora molte famiglie devono fare i conti con la perdita di lavoro, con la cassa integrazione, con l'impossibilità di far ricorso al credito bancario. E per questo appunto abbiamo ritenuto stamattina interessante poter fare un punto della situazione su quelle iniziative di sostegno delle famiglie in difficoltà che si moltiplicano e che sono attive grazie alla Caritas in questo periodo. Buongiorno al vice direttore della Caritas italiana, Francesco Marsico. Buongiorno a tutti. Benvenuto a Soldi e Dintorni. Noi avevamo dato molta enfasi nel periodo di Natale all'iniziativa che era stata annunciata dall'arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi. Proprio la notte della vigilia di Natale aveva annunciato un fondo per le famiglie in difficoltà del valore di 1 milione di euro, raccolto fra fondi dell'8 per mille, risparmi della diocesi e risorse personali. Questo fondo è salito già a quasi 3 milioni di euro, ma dopo Milano, Marsico, molte altre diocesi si sono attivate con iniziative di questo tipo, e forse si erano attivate già, non dico nel disinteresse, ma non avevano guadagnato magari l'onore della cronaca, si erano attivate già prima, perché la crisi è da un po' che morde. Evidentemente sia la crisi morde, sia è qualche anno che i redditi delle famiglie subiscono processi di infragilimento, quindi evidentemente su alcuni temi come il microcredito, fondi speciali per le famiglie, empori e spese solidali, consulenza al lavoro, sostegno e consulenza per i problemi della casa, molte diocesi italiane e Caritas Diocesane con loro si sono mossi su questi terreni, quindi le iniziative sono molte e variegate. Evidentemente, ve lo diceva, la questione è il sostegno al reddito delle famiglie e il sostegno di fronte appunto anche a fenomeni nuovi, appunto come quelli del sovraindebitamento dovuto appunto a una scarsa a volte anche cultura economica delle famiglie italiane. Quindi vari gli interventi evidentemente che si stanno intensificando all'interno della questione della crisi economica. Ecco, voi tra l'altro vi state proponendo in questo momento anche per promuovere direttamente assistenza finanziaria, quindi l'accesso al credito con microprestiti con le famiglie che sono in fortissima difficoltà. Ma com'è possibile attraverso la vostra intermediazione chiedere un prestito? Ma guardi, evidentemente parliamo di esperienze di carattere diocesano, si creano o attraverso fondazioni o strutture specifiche pool, gruppi di volontari che hanno competenze tecniche che ovviamente in collegamento col mondo bancario finiscono per fare da una parte una, diciamo così, analisi delle situazioni delle famiglie e dall'altra appunto un accompagnamento intelligente e competente di queste famiglie nei confronti del mondo bancario. Quindi chiaramente poi le forme sono un po' diverse, in alcuni casi si tratta di aiutare le famiglie a rimodulare i loro debiti, in altri casi invece si tratta proprio di accompagnare ad avere dei prestiti o dei microcrediti, a volte ovviamente con strutture diciamo particolarmente sensibili come banca etica o altro, oppure con il sistema le banche di credito cooperativo, oppure comunque col mondo bancario complessivamente inteso. Allora, lei ha citato le due parole che ci interessano in questo momento, microcredito e sistema bancario. Il microcredito arriva anche in Italia, alle fasi finali infatti un accordo perché arrivi anche qui la Grameen Bank, la struttura creata dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus in Bangladesh per dare prestiti ai più poveri. Yunus è in Italia in questi giorni, sentiamo che cosa ha detto ieri al microfono della nostra Valentina Furlanetto. We are working on it, we are hoping Stiamo lavorando a questo progetto. Posso dire che all'iniziativa partecipano, oltre alla Grameen Bank, anche UniCredit e l'Università di Bologna. Il progetto è in stato avanzato. Siamo alle fasi finali degli accordi. Abbiamo già fatto la stessa cosa negli Stati Uniti e i risultati sono stati eccellenti. Non abbiamo ancora deciso dove sarà la filiale, ma sui tempi vi posso dire che spero che il progetto parta entro quest'anno. E insomma, la crisi ci avvicina paradossalmente anche alla situazione, non dico di povertà, delle popolazioni più povere del mondo, ma forse non è necessario estremizzare fino a questo punto, però è comunque una visita che devi farci riflettere. Sentiamo allora che tipo di riflessioni sta facendo il sistema bancario e il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti. Da noi la situazione è molto diversa che in Bangladesh, è un microcredito sociale per sopravvivere, c'è un microcredito alle piccole e medie aziende che in Italia si è avviato solo da qualche anno, stenta. Yunus ha avuto una grandissima intuizione, che è quella che la filantropia è una cosa importantissima, deve continuare a stare nel mondo, ma è molto più efficace se accanto alla donazione, che una volta spesa non c'è più, abbiamo delle imprese sociali che continuano a lavorare con le loro gambe, a produrre reddito e a dare risposte a determinati bisogni o a rendere i poveri un po' più ricchi. Quindi l'idea è valida, va ovviamente adattato alle singole realtà. Alcuni anni fa non si pensava che nelle economie occidentali il microcredito avesse spazio, oggi questo si sta realizzando. Francesco Marsico, vice direttore della Caritas Italiana, con il quale stiamo conversando questa mattina per Soldi e Dintorni, come vede questa iniziativa, una Grameen Bank anche italiana, che probabilmente dovrebbe muoversi anche con la vostra regia, con il vostro aiuto, immagino? Guardi, non abbiamo al momento un immediato, diciamo così, rapporto di collaborazione, ma evidentemente guardiamo grande interesse. Guardiamo anche con grande interesse il fatto che sia un grande istituto italiano, l'UniCredit, a essere nella partita. Evidentemente questo dimostra come appunto alcuni elementi stanno ormai contaminando tutto il mondo bancario. Dall'altra, non per contraddire il Presidente Guzzetti, evidentemente c'è un piccolo ambito che a volte rimane un po' nascosto rispetto agli osservatori, rispetto al microcredito dei nostri paesi, vale a dire le piccolissime attività economiche. Noi pensiamo che le nostre esperienze, ad esempio le famiglie immigrate che fanno piccole attività economiche, che possono essere di distribuzione ma anche di microimpresa, finiscono per avere anche nel nostro paese, grazie al microcredito, spazio per un'attività economica che dà autosufficienza e anche benessere. Io ringrazio molto Francesco Marsico per essere stato con noi questa mattina. Il tempo ci sfugge di mano, Marsico, ma avremo modo sicuramente di ritornare su questi argomenti. Buona giornata, presto. Grazie a voi e buon lavoro. Alessandro. E allora, tra poco alle 12, Deborah. A Salvadanaio, hai visto quello che sta succedendo in borsa. Ieri, certo, nuovo picco davvero terribile per i mercati finanziari. Allora oggi faremo un po' un punto della situazione, focalizzando la nostra attenzione su questa bufera che tra l'altro si sta concentrando sui mercati dell'est di nuovo da qualche settimana. Sono le 8:31, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. È stato un lunedì nero per i mercati azionari, con Milano che cede il 6%, Wall Street il 4,7%, e per l'Istat l'economia italiana è infrenata, il PIL è calato dell'1% rispetto al 2007, il peggior dato dal 1975. La comunità internazionale ha promesso ieri a Sharm el-Sheikh 4 miliardi e mezzo di dollari per la ricostruzione di Gaza e il rilancio dell'economia palestinese. L'Italia darà 100 milioni di dollari. E ieri in serata il premier Berlusconi è andato in Libia per firmare con Gheddafi il trattato di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Berlusconi ha chiesto perdono per il passato coloniale dell'Italia e ha invitato Gheddafi a partecipare al G8 della Maddalena. Sarebbero 8 le persone uccise oggi a Lahore, in Pakistan, in un attentato contro il pullman che trasportava la nazionale di cricket dello Sri Lanka. L'attentato è stato condotto da una dozzina di persone con mitra, razzi e granate mentre il pullman stava arrivando allo stadio per la partita contro il Pakistan. Le vittime sarebbero poliziotti che scortavano la squadra, ma tra i feriti ci sono anche 5 giocatori cingalesi. Il calcio invece in Italia, stasera torna la Coppa Italia, alle 20:45 l'andata della prima semifinale Lazio-Juventus, domani tocca Sampdoria-Inter. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio al tonfo delle borse, a qualche considerazione. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Forse dobbiamo sentirci tutti più giovani, ma ne avremmo volentieri fatto a meno. Wall Street è tornata ai livelli di 12 anni fa, 12 anni andati in fumo, e non accadeva dal 1975 di dover registrare una caduta così pesante del prodotto interno lordo italiano, meno 1% nel 2008. Chi ricorda le domeniche a piedi della prima crisi petrolifera non si sarà dimenticato quello che si diceva allora. Basta auto, si cambia vita, saremo tutti più poveri, eccetera. La storia fortunatamente è stata diversa. Allora, per esempio, imparammo a consumare meno energia per ogni unità di prodotto. E questa è stata una delle ragioni che ci hanno consentito di assorbire il colpo del petrolio a $150 soltanto un anno fa. Ogni crisi ha il suo risvolto positivo e forse anche questa potrebbe averlo se solo si cominciasse ad avere più rispetto per il lavoro e per la persona e a riscoprire accanto all'interesse individuale anche quello comune. La fiducia non è quotata in nessuna borsa, ma forse ognuno di noi può fare qualcosa per tirarla su. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Direttore, ci sentiamo ovviamente domattina alla stessa ora. Le 8:34 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come abbiamo sentito poco fa anche nel riepilogo delle notizie, Berlusconi è andato ieri a firmare in Libia da Gheddafi sotto la tenda del leader libico il via libera definitivo al trattato di cooperazione tra i due paesi, trattato di amicizia e cooperazione tra i due paesi. Di cosa si tratta? Cercheremo di capirlo. Innanzitutto saluto l'ambasciatore Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Romano. Buongiorno. Che effetto le fa sentire Berlusconi che chiede, non a nome suo ma a nome dell'Italia, ovviamente del nostro passato coloniale, nuovamente perdono e scusa a Gheddafi? Ma l'avevamo già sentito, per la verità, e credo che in tutto questo ci sia molto teatro. Berlusconi pensa, spera, crede che queste scuse ripetutamente chieste alla Libia apriranno la strada ad un rapporto molto diverso. Vorrebbe in realtà ristabilire un rapporto speciale, privilegiato dell'Italia con la Libia, e spera di farlo con la cooperazione di Gheddafi. Non so se francamente se ci riuscirà. Gheddafi è molto imprevedibile, lo abbiamo constatato più volte nel corso degli ultimi anni. Detto questo, forse qualche speranza c'è. Non mi piace, non è dignitoso chiedere perdono per peccati commessi, ma anche benefici recati a quel paese che non credo andrebbero dimenticati. Ma detto questo, il futuro conta più del passato. Sì, più delle parole. Dal punto di vista economico, cerchiamo di capire, c'è anche Guido Ruotolo, inviato della Stampa, che conosce molto bene anche le dinamiche di tutto questo. Guido, buongiorno. Che cosa possiamo in sintesi dire del contenuto di questo accordo? Si parla molto anche di scambi economici importanti. L'Italia darà nei prossimi 20 anni, credo, 5 miliardi di dollari, in che cosa e in cambio di che cosa? Ma in cambio, sicuramente come risarcimento appunto per il passato coloniale. Vorrei ricordare, come dire, anche la monetizzazione che è avvenuta soltanto adesso, ma l'impegno a uno scambio anche di risarcimento fu preso nel 2001 dal governo proprio Berlusconi. Ci si impegnò appunto a chiudere questa partita in maniera molto, appunto, anche economica, perché era la condizione posta dal leader Gheddafi. Ci sono appunto, nell'accordo si prevede appunto questo scambio anche di denari, questi miliardi di dollari che dovremo dare in 20 anni, e in cambio si apre tutta una prospettiva molto impegnativa per sul terreno intanto economico, dal punto di vista delle risorse energetiche, del petrolio e del gas. L'accordo fatto, ulteriore accordo fatto dall'ENI l'anno scorso, adesso dovrebbe diventare operativo, e soprattutto nelle speranze italiane c'è una soluzione al problema dell'immigrazione clandestina. Questo è un altro tema annoso. Senta, ambasciatore Romano, anche questa cifra, 5 miliardi di dollari, anche se i contenuti, poi Gheddafi ha detto le aziende italiane avranno una precedenza assoluta su tutte, insomma, è una bella cifra però con la quale chiudiamo il nostro passato e con la quale compriamo, usiamo questo termine, qualche favore commerciale importante con la Libia. Attenzione, molti di questi denari torneranno indietro, non dimentichiamo che gran parte di questo denaro verrà impiegato, almeno nelle intenzioni, per la costruzione di infrastrutture, e per le infrastrutture immagino, suppongo, ma qualche cosa in questo senso è già stato detto, che le industrie italiane verranno preferite ad altre. In altre parole, c'è un trattato, un accordo di carattere preferenziale che dovrebbe funzionare. Naturalmente, ripeto, è l'imprevedibilità di Gheddafi, sì, la grossa incognita di tutte queste faccende. Ma talmente imprevedibile da disattendere anche una firma fatta? Ma direi di sì, tutto sommato, conoscendolo, avendolo visto lavorare per parecchio tempo, ho l'impressione che l'imprevedibilità di Gheddafi sia una componente di cui non ci si può sbarazzare. Bisogna tenere presente che una certa logica nella follia di Gheddafi c'è. Gheddafi sta cercando di creare una nazione, e le nazioni si creano contro qualcuno. Bisogna avere un nemico, non c'è niente da fare, nessuna nazione è nata se non contro qualcun altro. E noi stiamo facendo e recitando, o abbiamo recitato per parecchi anni, un po' meno ora grazie al cielo, la parte del nemico. Accidenti, no. Guido Ruotolo, a proposito di immigrazione, visto che hai accennato il tema, è un altro grande tema, quello degli sbarchi, insomma, si partono, sappiamo che le carovane di persone, di migranti, attraversano i deserti, passano in Libia e poi arrivano sulle coste libiche e da lì partono per arrivare in genere a Lampedusa, ma non solo. Ecco, questo è un altro tema interessante. Cosa c'è di questo, di concreto, in questo accordo come contrasto a questo fenomeno? Cioè, l'impegno è tanto che va avanti, tra l'altro, da alcuni anni, del contrasto alle organizzazioni criminali. Ora, sull'immigrazione clandestina, la ratifica avvenuta ieri del trattato di amicizia tra i due paesi dovrebbe sbloccare da subito, dai prossimi giorni, il famoso pattugliamento misto delle coste dello specchio di mare che appunto separa Lampedusa dalle coste libiche, ma soprattutto dovrebbe finalmente entrare in fase operativa l'accordo che prevede la monitorizzazione satellitare della zona sud della Libia, cioè del deserto, dei confini nel deserto. Questo è un accordo siglato da tempo, si impegnò l'Unione Europea al tempo dello scambio con i cinque prigionieri, le cinque infermiere bulgare per la vicenda di Bengasi, si impegnò l'Unione Europea a finanziare questo progetto, adesso dovrebbe diventare operativo e un ruolo importante l'avrà la nostra Finmeccanica da questo punto di vista. Per il rifornimento delle attrezzature, cioè finché non si controlla il fronte sud, diciamo, tra la Libia, il Niger, il Chad, è difficile controllare poi il flusso di questa carovana, mi sembra di capire, Ruoto. Esattamente così, io ho anche naturalmente credo che avrà una funzione positiva anche il pattugliamento, ma come tutti possono ben immaginare, il flusso il fenomeno dei clandestini è un fenomeno carsico, per cui sì, si troverà ostruita una strada, ne troverà un'altra. Guardi, su questo, ambasciatore Romano, ieri quando abbiamo fatto una breve chiacchierata, lei mi ha dato un'immagine molto efficace che vorrei riproporre agli ascoltatori, proprio su quello che l'ultima cosa che ha detto Ruotolo, cioè fermare, ieri me l'ha raccontando la situazione Stati Uniti-Messico sostanzialmente, no? Certo, i libici non controllano il loro territorio e non controllano la frontiera meridionale. Speriamo che il satellite risolva tecnicamente il problema, ma non ne sono francamente molto convinto. Perché tra l'altro ho constato che neppure gli americani, quando hanno costruito un muro sul Rio Grande fra il loro territorio e il Messico, non hanno in realtà risolto il problema. Quel muro è per certi aspetti un colabrodo e poi comunque si è fatto negli Stati Uniti e sotto quella frontiera esattamente quello che è accaduto sotto la frontiera fra Gaza e l'Egitto. Hanno costruito un centinaio di tunnel, quindi la roba continua a passare e tra l'altro non passano soltanto le persone, passa la droga, passano le armi, eccetera. In realtà il denaro è come l'acqua e la povertà anche è come l'acqua, trovano sempre una strada per passare. Quindi dal sud della frontiera libica gente continuerà ad arrivare, forse qualche cosa di più potrà essere fatto sul mare, se le pattuglie, se le ronde per così dire potremmo chiamarle ronde anche quelle, italo-libiche, finiranno per arrestare e condizionare il problema, ma la povertà dal sud continuerà ad arrivare. Rimane da capire, visto che lei ha detto giustamente, per tanti anni siamo stati anche il nemico di Gheddafi, questo è un tema che molti si pongono ancora, come fare accordi, come fare un'alleanza con un grande nostro nemico del passato, se si vuole può dire anche grande nemico, ora sembra grande amico, e questo è un tema di che cosa, di realpolitik, di che cosa? Ma c'è un vecchio motto che credo valga per tutti, per noi, come del resto dovrebbe valere anche per Israele: e con chi si fa la pace se non con il nemico? A proposito, per chiudere, di Gaza e Egitto, e ieri insomma quello che è successo a Sharm el Sheikh, anche lì 100 milioni di dollari offriamo come Italia, è una bella cifra, più di quanto mettano altri paesi europei. Ma vede, in quella faccenda lì di questi denari per Gaza ci sono alcune cose che non riesco a capire. Prima di tutto gli hanno dato complessivamente 3 miliardi e 200 milioni di euro, sono sì. 900 milioni di dollari quelli degli Stati Uniti, 100 milioni di dollari i nostri. Beh, guarda caso, questo è molto di più di quanto non avessero chiesto. I danni grosso modo ammontano a 1,5 miliardi, ma gliene hanno dati molti di più. Perché? Perché non basta ricostruire, perché occorre puntare sullo sviluppo, perché deve essere naturalmente denaro speso per la crescita anche civile, anche economica del paese, benissimo, ma come si fa a fare tutto questo se non lo si dà questo denaro a coloro che sono i più qualificati per utilizzarlo, vale a dire i gestori, quelli che governano la striscia di Gaza, vale a dire a Hamas, ma questo non si può fare perché l'abbiamo qualificata organizzazione terroristica. Poi naturalmente questa ricostruzione richiede materiale edile, macchinari, gli israeliani fermano quasi tutto, fermano persino le cose sulla frontiera, fermano persino le cose che non hanno alcun riferimento con la ricostruzione, l'edilizia, ma persino con il sostentamento quotidiano. Quindi francamente ho l'impressione che quel denaro finirà per restare nelle cassaforti di quelli che l'hanno stanziato. Allora, io la ringrazio Sergio Romano, così come ringrazio Guido Ruotolo della Stampa. Allora, alle 8:47 minuti saluto il sottosegretario alla salute Francesca Martini, buongiorno sottosegretario. Buongiorno a voi. Allora, tecnicamente si chiama ordinanza contingibile urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani. Ve la presenterà sì. Oggi alle 12, insomma, questo per certo. Dire nuove regole in arrivo per i proprietari dei cani. Allora, nuove regole sì. Importanti anche, mi sembra di capire. Cerchiamo di spiegare tutto. Allora, innanzitutto, scomparirà, questo ce lo può confermare, la lista dei cani pericolosi voluta dal ministro Sirchia e il ministro Turco prima? Sì, scompare perché non ha fondamento scientifico. Io vorrei ricordare che il ministro Sirchia inserì 140 cani, la ministro Turco 17, perché in effetti non esiste una codificazione scientifica fatta dalla letteratura appunto di medicina veterinaria che dica un cane è più pericoloso perché appartiene a una certa razza. Certo è che i cani, se non sono controllati e non hanno un'educazione specifica e il padrone non è soggetto a responsabile, se un cane è grande può diventare pericoloso. E quindi come fare per ovviare? Perché un barboncino e un Rottweiler non sono, diciamo, la stessa cosa da curare, ecco, voglio dire, come rischio di pericolosità, se sfuggono. Infatti, più che potenzialmente, altro. Potenzialmente il cane più è impegnativo, l'abbiamo chiamato, cioè più è di grossa stazza e ha una forza mascellare possente, più il cane potenzialmente può comportare fattori di rischio. Ed ecco quindi che ho lavorato per moltissimi mesi a fianco delle regioni, a fianco dei medici veterinari sia pubblici che libero professionisti, a fianco dei miei dirigenti, per fare un'ordinanza che davvero rispondesse alle finalità che sono state citate nell'introduzione. Tutelare l'incolumità pubblica, perché purtroppo queste, diciamo, blacklist non solo non hanno portato a una riduzione delle situazioni di rischio e delle aggressioni, perché vorrei ricordare che la maggior parte, e sono poche le aggressioni se guardiamo ai 6.900.000 cani presenti in Italia, ecco, questo ricordiamo che è un fenomeno residuale rispetto alla presenza dei cani, miglior amico dell'uomo, al suo fianco. Però queste situazioni gravissime, drammatiche, pesantissime, che abbiamo visto anche purtroppo negli ultimi tempi, sono situazioni che si sono sviluppate molto spesso nel contesto domestico, sì, quindi all'interno della proprietà privata, che non era assolutamente presa in considerazione da qualsiasi, diciamo, precedente testo di legge, e situazioni di branco, cioè di randagismo, che purtroppo è una piaga ancora dilagante. Quindi per quel che riguarda per esempio gli atteggiamenti in famiglia è sempre un comportamento umano sbagliato, questo secondo voi, secondo lei? Diciamo, ci sono situazioni di contesto, di non controllo del cane, di non responsabilità rispetto, come giustamente lei ha detto, alla tipologia del cane, che provocano situazioni drammatiche. Per questo è importantissimo sottolineare un principio che è proprio l'articolo 1,1 dell'ordinanza: il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni e lesioni a persone, animali e cose provocate. Questo è un aspetto interessante. Dopodiché, cosa ci vorrà? Quindi il patentino per avere un corso preventivo, per avere, non so, un Rottweiler, un mastino napoletano, i cani più impegnativi, diciamo. Ecco, nasce finalmente anche in Italia la formazione per i proprietari. Oltre a vietare l'ordinanza tutti quegli addestramenti che purtroppo stimolano fortemente l'aggressività del cane, perché l'aggressività è un fattore, diciamo, insito in qualsiasi cane, ovviamente più o meno, ma comunque fa parte della, diciamo, etologicamente del carattere dell'animale. Sì. Ecco, è importantissimo che i proprietari, soprattutto i proprietari di cani impegnativi, quindi cani che richiedono determinate attenzioni anche sul piano della garanzia della sicurezza della propria famiglia e degli altri, abbiano la possibilità di frequentare un corso di formazione. Ma la possibilità, quindi, o l'obbligo, sottosegretario? Cioè sarà obbligatorio frequentarlo? Sarà obbligatorio per le tipologie di cani, non razze, ma problematiche già risultate, ad esempio, in alcune situazioni di contesto, e saranno proprio i comuni, in collaborazione con le ASL, che sono quelli che hanno il controllo del loro territorio, a chiamare questi proprietari a seguire un corso di formazione e a valutare eventualmente anche il comportamento. C'è un esempio pratico: se io voglio un Rottweiler dovrò fare un corso preventivo? Allora, se lei vuole un Rottweiler andrà senz'altro dal suo veterinario a fare le vaccinazioni, sì, del cucciolo. Il suo veterinario, e anche questo è stabilito nell'ordinanza, le consiglierà caldamente di andare a recarsi presso la propria ASL, dove in collaborazione con il suo comune sono sviluppati dei corsi che le insegneranno come meglio tenere il suo cane. Però le consiglierà, volevo capire questo, me lo consiglierà, ma non sono obbligato, non sono tenuto a fare. Lei è obbligato se il comune la chiama a fare. Ah, ho capito. Poi saranno i comuni, diciamo, a decidere. Esatto. Senta, un altro punto, un altro aspetto interessante: l'obbligo del guinzaglio ci sarà per tutti. Ma cioè devono averlo proprio tutti al guinzaglio, cioè tutti i cani al guinzaglio. Guardi, tutti i cani al guinzaglio. Posso farle un applauso su questo? No, le faccio un applauso su questo. Anche il barboncino, io lo voglio al guinzaglio, gli voglio bene, ma lo voglio al guinzaglio. Proprio perché gli voglio bene lo tengo al guinzaglio, perché lei capisce bene che nelle città di oggi anche il barboncino è assolutamente a rischio, perché traffico, situazioni di affollamento. Il cane va controllato e va seguito per l'incolumità degli altri e per la sua incolumità, perché può attraversare una strada, può vedere un altro cane, possono svilupparsi situazioni comunque di rischio. Senta, il guinzaglio è un metro e mezzo, ecco, attenzione, cioè, da oggi, da quando entrerà in vigore l'ordinanza, sono vietati, allora, tutti i guinzagli, quelli ad estensione sostanzialmente? Guardi, non sono vietati, però bisogna tenerli bloccati a un metro e mezzo. Ah, bloccarli a un metro e mezzo, non ecco, più di un metro allora, e mezzo. Allora, perché è importante? Perché quando un guinzaglio può partire e allungarsi fino a 3 metri, 4 metri, ma dov'è la sicurezza? dov'è la sicurezza per le altre persone? Dov'è la sicurezza per lo stesso cane che magari parte, vede un altro cane, attraversa la strada, va sotto una macchina? Quando parliamo di sicurezza e di controllo dobbiamo essere seri, dobbiamo guardare anche tutte quelle situazioni, anche piccole, perché forse finora l'abbiamo tollerato, ma abbiamo avuto davvero tante rimostranze da persone che sinceramente si sono trovate in situazioni di disagio. Senta, devo dire anche un'altra cosa, nei parchi pubblici non si tengono i cani liberi. Ecco, al guinzaglio, beh, sempre. Oppure al guinzaglio dai comuni. Oppure vale la questione del guinzaglio. Le chiedo, sottosegretario, ho 20 secondi. C'è anche la questione della museruola. Sarà obbligatorio portarla con sé per tutti? Allora, con sé per tutti, cioè, però con sé ricordate per tutti. Allora, che intanto per museruola intendiamo anche quelle morbide a fascetta. Nessuno chiederà mai al proprietario, prendiamo il barboncino, anch'io ho due cani tra cui anche un barboncino, nessuno chiederà al proprietario di un barboncino di mettere la museruola perché diventa pericoloso, però se ho un cane di grossa stazza non soltanto potrebbe creare situazioni di tensione tra le altre persone, ma anche l'autorità pubblica per motivi di sicurezza potrebbe chiedere di mettermi. Ricordiamoci però che tutti i cani che hanno già morso o che hanno già dato segni di difficoltà comportamentale, questa guinzaglio, questa museruola dovranno portarla sempre in ambito pubblico. Perfetto, in vigore da quando l'ordinanza? Da oggi stesso? Oggi è stata firmata e i tempi tecnici che non dipendono da me la registrazione dell'atto, e dopodiché mi raccomando tutti con il vostro cane a guinzaglio. Perfetto. Per la sicurezza degli altri e per la sicurezza del vostro cane. Grazie sottosegretario Francesca Martini, oggi alle 12 la presenterà la stampa, ma la ringrazio di averla anticipata qui a Radio 24 con le nuove regole, ma domani leggeremo poi su tutti i giornali: cari proprietari di cani, attrezzatevi per la sicurezza vostra e degli altri. Ci fermiamo qui, grazie a tutti, a Laura Marchese, Alessandro Marco Tulli in redazione, Giorgio Matteo no, oggi dorme, e Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara, ancora politica estera, c'è anche il ministro Frattini, ospite, parliamo con l'elefante.